Questo è il primo report della giornata. Allora, il blocco sui binari del treno regge ancora. Fino a prima c'erano ancora più o meno 1500 persone. Finalmente si è riusciti a fargli passare cibo e acqua. E addirittura nella notte comunque hanno cominciato degli shuttle organizzati dal campo per far arrivare persone, quindi le persone sono riuscite, oltre a che chi voleva se ne poteva andare, anche insomma, i compagni che volevano arrivare avevano questa possibilità. Noi ora stiamo cercando di raggiungere diciamo il punto più vicino al blocco, che è da dove partono, arrivano gli shuttle. Riguardo agli arrestati, purtroppo ancora non ho esattamente notizie di prima mano esatte. Quello che ho potuto capire è che quello che ho potuto capire che ci sono più o meno un centinaio di denunciati, ma ancora nessuna diciamo, accusa formale elaborata. Ecco, questo è quello che ho capito dalle varie informazioni che mi sono arrivate. Questo per quello che riguarda il blocco arancione che ieri è riuscito ad arrivare agli impianti della produzione di carbone. In realtà, riguardo alle persone fermate nel blocco, che invece poi è arrivato al treno, io non ho messo bene le notizie sulla quantità, insomma, se sono stati fermati o arrestati o le denunce, eccetera, eccetera. Sicuramente una parte delle persone che stavano in quei blocchi, che sono poi arrivati per primi ai binari, quindi il rosso, il dorato e l'argentato, una parte non c'è mai arrivata e ha provato quindi ad arrivare questa notte attraverso gli shuttle o oggi. In questo momento la polizia comunque ha bloccato le strade di accesso, appunto, e quindi anche arrivare, come stiamo cercando di fare noi, anche solo per visitare o per andare a fare blocco o per portare le cose, sta diventando un pochino più inaccessibile e si deve fare molto a piedi. Quindi vabbè, è un po' così la situazione, perché ovviamente la polizia cerca di mettere i bastoni fra le ruote, diciamo, l'approvvigionamento. Ora cercherò di avere notizie più certe riguardo al funzionamento del power plant, perché insomma ora l'obiettivo che stiamo raggiungendo è quello di far proprio spegnere la centrale di produzione di energia elettrica.